Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Lev Tolstoi. Canti al villaggio. Le voci e l'armonica si udivano proprio lì vicine, ma nella nebbia non si riusciva a vedere. Era un giorno feriale e perciò in un primo momento quei canti mi avevano stupito così di mattina. Probabilmente accompagnano i coscritti. Mi rammentai di una conversazione udita alcuni giorni prima a proposito del fatto che fosse caduta la scelta sul 5 del nostro villaggio e mi diressi in direzione di quell'allegro canto che, senza che io lo volessi, mi attraeva. Quando mi accostai ai cantori, il canto e l'armonica tacquero. I cantori, ovvero i ragazzi che venivano accompagnati alla partenza dal padre di uno dei chiamati, entrarono in un'isba di pietra che era composta di due stanze. Davanti alle porte c'era un gruppetto di babe, ragazze e bambini. Mentre domandavo alle babe di chi erano figli quei giovani e perché fossero entrati nell'isba, dalla porta uscirono, accompagnati dalle madri e dalle sorelle, quegli stessi giovani. Erano in cinque, quattro scapoli, uno sposato. Il nostro villaggio è poco distante dalla città e quasi tutti i coscritti lavoravano in città ed erano vestiti alla cittadina, evidentemente con i loro abiti migliori, giacche, berretti nuovi, stivaloni eleganti. Spiccava tra gli altri un giovane basso di statura, ben fatto, col volto dolce, allegro, espressivo, con i baffetti e la barba corta appena spuntati e luminosi occhi castani. Come uscì, subito prese la grossa armonica pregiata che portava a tracolla e, rivolgendomi un inchino, si mise a suonare l'allegra Barinia e, camminando spedito e a ritmo, s'avviò lungo la strada. Accanto gli camminava un biondino tarchiato, anch'egli di bassa statura. Lanciava rapide occhiate a destra e a sinistra, accompagnava la banda soso come seconda voce mentre il solista reggeva la prima. Era lui quello sposato. I due andavano davanti agli altri. Gli altri tre, invece, vestiti con uguale eleganza, li seguivano e non si distinguevano per alcunché di particolare, a parte il fatto che uno di loro era di alta statura. Camminavano insieme alla gente dietro ai giovani. I canti erano tutti allegri e durante quel corteo non ci fu alcuna manifestazione di dolore. Ma appena ci avvicinammo al cortile successivo, nel quale avrebbe dovuto esserci un altro banchetto in loro onore, e ci fermammo, subito cominciò il pianto dirotto delle donne. Era difficile comprendere le parole del loro lamento. Si udivano solo delle parole distinte. «Oh, in morte mia! Il padre e la madre! Al paesello natale!» E dopo ogni versetto, colei che guidava il coro, ispirando aria, prorompeva da principio in lamenti prolungati e poi scoppiava in una risata isterica. Erano le madri, le sorelle di quelli che dovevano partire. Oltre al vociare delle parenti, si sentivano le esortazioni delle altre donne. «Sarà così, matrena, ne ho passate io», sentì le parole di una donna che si rivolgeva alla compagna urlante. I giovani entrarono nell'isba. Io rimasi per strada, parlando con un contadino che conoscevo, Vassili Ariekov, un mio ex scolaro. Suo figlio era uno dei cinque, quello stesso giovane sposato che reggeva la seconda voce. «Allora, ti dispiace?» dissi. «Che farci? C'è poco da dispiacersi, bisogna prestar servizio». E mi parlò di tutta la sua situazione economica. Aveva tre figlioli. Uno era in casa, un altro era questo che partiva soldato, il terzo, come pure il secondo, fino ad allora lavorava fuori ed era bravo nel suo lavoro. Quello che doveva partire, evidentemente, era stato un cattivo lavorante. La moglie se l'era presa in città. non va bene per le nostre abitudini. Una foglia caduta. Adesso almeno riuscisse a guadagnarsi il pane per sé. Per dispiacere dispiace, ma che ci si può fare? Mentre parlavamo, dalla casa i giovani uscirono per strada e di nuovo ricominciarono il vocio, gli strilli, le risate, le esortazioni. Rimasero nel cortile per un 5 minuti e poi proseguirono, e di nuovo risuonarono l'armonica e i canti. Non era possibile non meravigliarsi dell'energia, del vigore del musicante, della precisione con cui batteva il tempo, con cui lo segnava, fermandosi, di come si azzittiva e poi esattamente a tempo si metteva a cantare con voce allegra, guardando attorno con i suoi carezzevoli occhi castani. Aveva evidentemente un autentico e grande talento musicale. Lo guardavo, e quando incrociammo gli sguardi, o perlomeno così mi sembrò, fu come se si fosse confuso e con un movimento delle sopracciglia si voltò e proruppe un canto ancor più vivace. Quando ci avvicinammo al 5° cortile, l'ultimo, e i ragazzi entrarono nella casa, entrai dietro di loro. Tutti e 5 i ragazzi erano stati fatti accomodare a un grande tavolo coperto da una tovaglia. Sul tavolo c'erano pane e vino. Il padrone, quello stesso con il quale avevo parlato e che accompagnava il figlio sposato, versava da bere e offriva a tutti. I ragazzi non bevevano quasi nulla, sorseggiavano non più di un quarto di bicchiere, l'assaggiavano appena e lo restituivano. Il padrone tagliava un po' di tondo e lo distribuiva da mangiare. Il padrone riempì i bicchierini e li distribuì. Mentre guardavo i giovani, dalla stufa, vicino a dove ero seduto, scese una donna con un abbigliamento che mi sembrò estremamente insolito e strano. La donna indossava un abito d'un verde brillante, che sembrava di seta, con ornamenti alla moda. Ai piedi aveva stivaletti col tacco alto, i capelli biondi erano pettinati alla moda e alle orecchie aveva grandi orecchini ad anello, dorati. Il volto della donna non era né triste né allegro, ma come offeso. Scese battendo vivacemente sul pavimento con gli stivaletti nuovi dal tacco alto, senza guardare i giovani, se ne uscì nell'andito. Tutto in questa donna, dall'abbigliamento al volto dall'aria offesa e fino agli orecchini, tutto era così estraneo a quel che la circondava che non riuscivo in alcun modo a capire chi potesse essere e come fosse andata a finire sulla stufa dell'isba di Vassili. Domandai chi fosse a una donna che sedeva vicino a me. «La nuora di Vassili era una cameriera», mi risposero. Il padrone si mise a versare per la terza volta, ma i giovani rifiutarono il rinfresco, si alzarono, si soffermarono a dire una preghiera, ringraziarono il padrone e uscirono per strada. E per strada subito ripresero i lamenti. Per prima riprese a lamentarsi una donna assai vecchia, ingobbita, uscita al seguito dei giovani. Aveva un modo così particolare di lamentarsi, di prorompere in pianto, che le babe la consolavano senza interruzione e sorreggevano per i gomiti la vecchia gemente e scossa dal pianto che ricadeva in avanti. «Chi è?» domandai. «È la nonna, la madre di Vassili, voglio dire». Appena la vecchia si mise a ridere istericamente, rovesciandosi tra le braccia delle babe che la sorreggevano, il corteo si mosse in avanti e di nuovo proruppero l'armonica e le voci allegre. All'uscita dal villaggio si fecero avanti i carri che dovevano portare via i coscritti e tutti si fermarono. Non c'erano più né pianti né lamenti. Il suonatore di armonica si sfrenava sempre più. Piegata la testa da una parte e fermatosi su di un piede solo, con l'altro voltato in fuori, lo batteva per terra e puntualmente, laddove era necessario, reggeva il canto con la sua voce vivace, alta, allegra, accompagnata dalla piacevole seconda voce del figlio di Vassili. E i vecchi e i giovani, e in particolare quelli che circondavano i ragazzi e io tra loro, noi tutti, senza abbassare lo sguardo, guardavamo il cantore, ammirati. «Ed è anche abile il briccone», disse qualcuno dei mugichi. «Il dolore piange, il dolore canta canzoni». In quel mentre al cantore s'accostò a grandi passi energici quel giovane che tra i ragazzi accompagnati si distingueva per la statura particolarmente alta. Chinatosi verso il suonatore di armonica, gli disse qualcosa. «Che giovanottone!» pensai. «Questo sicuramente l'han già ruolato da qualche parte nella guardia. Non sapevo chi fosse, quale corretirmi venisse. Chi è quello?» domandai, indicando il ragazzo gagliardo a un vecchietto di bassa statura che mi si stava avvicinando. Il vecchietto, levatosi il cappello, mi fece un inchino, ma non sentì bene la mia domanda. «Cosa state dicendo?» In un primo momento non l'avevo riconosciuto, ma appena cominciò a parlare mi ricordai subito di quel bravo music lavoratore al quale, come spesso accade, come in un susseguirsi di fatalità, erano capitate una disgrazia dopo l'altra. Una volta gli avevano portato via due cavalli, un'altra aveva avuto un incendio, poi era morta la moglie. In un primo momento non l'avevo riconosciuto perché, non avendolo visto da tempo, ricordavo il Procofi dei capelli rossicci, d'altezza media, mentre adesso non era più fulvo, ma grigio, e s'era fatto tanto piccolo. «Ah, sei tu, Procofi», dissi. «Ti ho chiesto chi era quel ragazzone, quello che si è avvicinato ad Alexandre». «Quello?» ripeté Procofi, indicando il giovane alto con un movimento della testa. Crollò il capo e biascicò qualcosa che non riuscì a distinguere. «Ti ho chiesto di chi è figlio», ripetei la domanda, e le lanciai un'occhiata a Procofi. Il volto di Procofi si contrasse. Gli zigomi ebbero un fremito. «È il mio», proferì, e voltandomi le spalle e coprendosi il volto con la mano, si mise a piagnucolare come un bambino. E solo allora, dopo quelle tre parole di Procofi, «è il mio», non solo con il raziocinio, ma con tutto il mio essere avvertì l'orrore di quel che stava avvenendo sotto i miei occhi in quel mattino nebbioso per me memorabile. Tutto quel che divario, incomprensibile, strano avevo visto, tutto improvvisamente assunse per me un significato semplice, chiaro e terribile. Provai una vergogna tormentosa per aver osservato tutto ciò come uno spettacolo interessante. Mi fermai e con la coscienza di aver compiuto un'azione veramente abietta, me ne tornai a casa. E pensare che tutto ciò si compie per migliaia, per decine di migliaia di persone in tutta la Russia, e si è compiuto e si compirà ancora a lungo, per questo mite, saggio, santo, e così ferocemente, perfidamente ingannato, popolo russo. C'era una volta uno zar giovane. C'era una volta uno zar giovane, bello, sano, ricco, aveva tutto. E non aveva niente da desiderare e cominciò a immalinconirsi e vedeva soltanto giovani sani e andò a passeggiare e vide un vecchio. «Cos'è questo?» «Vede un corpo morto». «E questo cos'è?» «E anch'io sarò così e anche a me succederà?» «Sì». Tornò a casa ancor più immalinconito. «Perché vivere?» gli dicono. «C'è uno stariez molto sapiente, ma da lui». Di nuovo uscì di nascosto e andò dallo stariez. Va lungo una strada e sente un lavorante che canta una canzone. «Che hai da essere allegro?» «E come se sono allegro? Meglio di così non si potrebbe». «E sempre se così?» «Sempre. Ho tutto. Mi danno da mangiare bene. Il lavoro è leggero. Lavoro un po'. Canto canzoni. Non ho preoccupazioni, gioco con i compagni». Arrivò dallo starez gli raccontò di quant'era malinconico, specie dopo che aveva visto il vecchio e il morto, e invece quel lavorante cantava. Come fare? Lo Stariez dice: «Tu dici che il lavorante è allegro? Domandagli perché». «Gliel'ho domandato», dice lui. «E perché tu hai dimenticato i tuoi doveri?» «E quali sono i miei doveri? Io sono uno zar, non un lavorante». «Non è vero. Tu sei un uomo, e ogni uomo è un lavorante». «E il lavorante di chi sarei io?» «Di chi? Di Dio. Lui ti ha dato e ti dà la vita, ti dà da mangiare, da bere, ti dà la gioia. E tu sei lavorante suo, e per lui devi lavorare». «A far cosa?» «Cosa? Il suo lavoro, l'opera sua. E l'opera sua è far sì che noi tutti viviamo bene. Ecco dunque, servi lui, fa l'opera sua». «Come?» «Come? Ama gli uomini, tutti gli uomini, servili». «Beh, ma è la vecchiaia e la morte?» «Tu fa soltanto quel che lui comanda. Servi lui e non vedrai né vecchiaia né morte». «Che fare dunque?» «Fa così, che non siano gli altri a servire te, ma tu a servir loro». «Come si fa a far questo?» «Esci dal palazzo, va da un uomo come quello e vivi tra i suoi lavoranti. Impara a lavorare. Fa così e vivi là per un'estate e poi vieni da me e dimmi come avrai vissuto. Se avrai vissuto bene, rimanici. Se avrai vissuto male, torna a casa tua». Lo zar gli credette e andò a casa e disse alla moglie che voleva andarsene dal palazzo e vivere in campagna e lavorare lui stesso. La moglie non fu d'accordo. Lo zar gli disse: «Io non posso più vivere così, ma andrò, come mi ha detto lo Stariez». La moglie gli dice: «Va». Lo zar andò, visse un'estate e imparò a lavorare e cominciò ad aiutare gli altri. E quando venne dallo Stariez, gli disse che stava talmente bene come non era mai stato, che aveva cominciato a cantare canzoni. Arturo Cirillo ha letto Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it.